Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Romanzo di cui si sentirà parlare molto nei prossimi mesi. Ha già vinto il Man Booker International Prize, che è il più importante premio letterario dedicato in Gran Bretagna alla narrativa tradotta. L'ha scritto la sudcoreana Ahn Kang, si intitola La vegetariana, pubblicato in Italia da Adelphi con la traduzione di Milena Zemiera Ciccimarra. È uscito a livello internazionale solo nel 2016, in realtà il libro era stato pubblicato quasi 10 anni fa nella Corea del Sud. È un romanzo molto bello, intenso, crudo, a tratti forse anche disturbante, ma che veramente vi consiglio di leggere. La protagonista è una donna, Young Hee, che un giorno, dopo aver fatto uno strano sogno, decide di non mangiare più carne. In realtà inizia a limitare anche un po' tutti gli altri alimenti, lentamente deperisce, il suo corpo cambia. Nessuno la comprende. Il marito, che non l'ha mai considerata importante, dopo questa scelta diventa aggressivo. Il padre è sempre stato violento nei suoi confronti e lo è anche se la figlia ormai è diventata una donna. La sorella vorrebbe capirla, però sta zitta, diciamo, non interviene, almeno inizialmente. Il romanzo è diviso in 3 parti, la prima con il punto di vista del marito di Young Hee, la seconda raccontata dal cognato e l'ultima nella quale viene data voce alla sorella Hin Hee. Ecco come Ahn Kang ci parla del suo romanzo con la traduzione di Sonia Fulin. Suddenly she suffers nightmares. Tutto a un tratto la protagonista inizia ad avere degli incubi, e un incubo in particolare con delle immagini di carne. E dopo quest'incubo decide appunto di rifiutare la carne, e questo perché lei vuole rifiutare la violenza umana. La violenza umana è onnipresente dappertutto nel nostro mondo e nella società umana, e lei non vuole recare violenza a nessun tipo di essere umano e decide quindi di diventare vegetariana, facendolo anche in un modo davvero da perfezionista. Vuole addirittura trasformarsi in una pianta e diventare un albero. Non vuole più appartenere alla razza umana, perché per lei questo è l'unico modo per salvarsi dalla violenza umana. Because it is the only way to save herself from any kind of violence. Si capisce che Young Hee è cresciuta in un contesto violento. Il padre, per esempio, è un po' un padre padrone. A un certo punto c'è il marito che dice: so che insomma il padre la frustava sui polpacci fino all'età dei 18 anni. C'è una scena molto forte in cui il padre proprio apre la bocca con forza alla figlia per farle mangiare la carne. Questo padre è tipico, cioè riflette un po' la cultura dell'organizzazione familiare nella Corea del Sud, o è un personaggio appunto estremo nel suo romanzo? Young's father is a veteran from the Vietnamese War. And he's not typical father. Il padre di Young Hee è un veterano della guerra del Vietnam e no, non è assolutamente una figura tipica della società coreana. Anzi, lui, come molti altri personaggi e l'organizzazione familiare, sono esagerati nel romanzo, che non vuole avere un approccio sociale sulla società coreana. È un approccio esistenziale e universale. Questa scena violenta a cui lei faceva riferimento, in cui il padre obbliga Young Hee a mangiare la carne, viene richiamata all'interno della terza sezione nella scena in cui i dottori, i medici, vogliono obbligare Young Hee a nutrirsi. E semplificando forse un pochino, si tratta di una personificazione della violenza del mondo che agisce contro la determinazione di Young Hee. Violence of the world which is against the determination of Young Hee. Infatti Young Hee inizia a rinunciare inizialmente alla carne, ma lentamente deperisce, diventa molto magra, si lascia andare. La reazione del padre, abbiamo visto, è violenta, è aggressiva. Anche il marito non reagisce bene. Com'è che reagisce il marito nei suoi confronti? This narrator, Young Hee's husband, in this first section, he's such an unreliable narrator, and it's quite ironic. Il marito, che è appunto il narratore della prima sezione, è di fatto un narratore assolutamente inaffidabile. Sta all'interpretazione da parte dei lettori capire appunto quale sia effettivamente la reazione del marito. I lettori sanno benissimo di non potersi fidare assolutamente di nessuna delle parole che il narratore racconta. Sanno che è inaffidabile, che è egocentrico, che fondamentalmente non è interessato al destino della moglie. E i lettori possono alla fine capire, intuire questo stato di solitudine di Yong-hae e tentare di immaginare la vera Yong-hae. In tutto il libro Yong-hae non fa altro che scappare dai vari narratori delle tre sezioni, nessuno dei quali è affidabile. E scoprire la vera Yong-hae è un po' il senso del romanzo per i lettori. Can I say yes? Discover the truth of Yong-hae, so that's the way of this novel. A proposito dei tre narratori, appunto noi scopriamo il personaggio di Yong-hae attraverso lo sguardo appunto del marito, oppure della sorella, per esempio. Perché Yong-hae non parla in prima persona, tranne che nella descrizione dei sogni? Yes, you are right, and Yong-hae is just observed by the three narrators as an object. Sì, Yong-hae è osservata da narratori per i quali lei non è altro che un oggetto del desiderio, oppure un oggetto di odio, di malintesi o di pietà e di compassione. La vera Yong-hae appare solamente nei sogni, in particolare nel sogno raccontato nella prima sezione, che rappresenta l'indizio fondamentale per i lettori e per consentire ai lettori di immaginare la vera Yong-hae. Ho usato un processo analogo nel mio romanzo Human Acts, che sarà pubblicato da Adelphi nel 2018, in cui un ragazzo viene ucciso nel corso del massacro di Guangzhou e alla fine è senza parole, non può più parlare, e la sua morte viene raccontata dalle voci dei narratori. Io qualche volta sento di non poter seguire i processi della narrativa tradizionale, perché credo che alcune verità possano emergere solo attraverso il silenzio e solo quando necessitano un'azione da parte dei lettori per avvicinarsi alla verità. Readers, and then it is more closer to the truth. In questo romanzo i personaggi femminili, Yong-hae innanzitutto, ma anche sua sorella, sono persone complesse, sono persone di grande interiorità, hanno un mondo interiore enorme da esplorare. Gli uomini invece appaiono in maniera più piatta, il padre con la sua violenza, il marito con la sua indifferenza, anche il cognato di Yong-hae di fatto fugge di fronte a certe cose. Perché ha voluto creare appunto questa distinzione fra personaggi maschili e femminili? This novel consists of three sections and two sections are narrated by male narrators. Questo romanzo è diviso in tre sezioni e due sezioni sono raccontate dal punto di vista maschile e la terza dalla sorella dal punto di vista femminile. Ma questa fondamentalmente per me è la storia di due sorelle e considero la terza sezione la più importante. Yong-hae è il personaggio principale. Nella prima sezione il marito che racconta è molto lontano da lei. Nella seconda sezione il cognato di Yong-hae si avvicina ma continua comunque a non riuscire davvero ad avvicinarsi a lei e a capirla. Ma nella terza sezione Yin-hae, con il suo dolore, il suo tentativo per capire Yong-hae e il suo mondo interiore complesso, tenta di avvicinarsi il più possibile, e per questo motivo, per l'importanza della terza sezione, ho voluto inserire il tempo presente, mentre le prime due sono raccontate al passato, e ho voluto creare una differenza anche in questo modo. È un romanzo con tanti strati che pongono degli interrogativi sulla violenza umana e sulla possibilità dell'innocenza, sulla possibilità di capire gli altri. Pone anche degli interrogativi sulla sanità mentale, sulla follia e che cosa sono. E poi c'è lo strato appunto rappresentato dalla voce di Yin-hae, che racconta la storia di queste due sorelle, che per me sono il cuore del romanzo e per cui era naturale avere una particolare ricchezza in questa sezione del racconto. It is natural to be rich in depicting the interior of these women. Questo romanzo solleva molte domande, molti interrogativi anche che possono turbare, insomma, il lettore. Lei non dà delle risposte. Possiamo quasi dire che c'è un finale non dico aperto, ma insomma in un certo senso così. Perché? I didn't want to depict the death of Yonghae. She's approaching death ironically just because she wants to save herself. Non volevo raccontare, non volevo scrivere della morte di Yonghae. Lei alla fine muore proprio perché cerca la salvezza. Io non volevo scrivere o descrivere la sua morte, ho preferito lasciarla così come è rappresentata nell'ultima scena eternamente. In fondo la vita è così, la vita ha la forma di una domanda. E quello sguardo di Yinhe alla fine del libro, che guarda fuori dalla finestra, guarda l'ambulanza ed è in cerca di una risposta, è un po' come volevo che io fosse il romanzo. Cioè il mio romanzo è un romanzo come quello sguardo, uno sguardo di protesta, uno sguardo che richiede delle risposte. Non volevo un finale così più scioccante o una conclusione definita, volevo un finale aperto a forma di domanda proprio come la vita. No defining conclusion, just like the life. E questa era la scrittrice sudcoreana Ahn Kang, autrice di La Vegetariana, pubblicato in Italia da Adelphi. Breve pausa, poi torneremo ancora a parlare di libri. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Il cacciatore di libri. Andrea Molesini, un nome insomma che probabilmente già conoscerete. Vi dico un titolo per tutti: Non tutti i bastardi sono di Vienna, il romanzo che vinse il premio Campiello nel 2011. Ora è in libreria con La solitudine dell'assassino, pubblicato da Rizzoli. Devo dire che quando ho visto questo titolo e l'ho visto associato ad Andrea Molesini, sono rimasta un po' spiazzata, perché ho pensato, bah, sarà una cosa su un serial killer, sarà un thriller, cioè uno stile diverso dal Molesini che conoscevo. Invece poi leggendolo ho capito che è tutt'altra cosa, è proprio l'analisi sottile, acuta, di quello che può essere il senso di colpa di una persona che è arrivata sia ad uccidere, ma dietro questo gesto ci sono tante e tante cose. Partiamo appunto dal colpevole, da colui che ha ucciso e che ha passato 20 anni di carcere e per raggiunti i limiti di età, ormai 81 anni, esce dal carcere. Ci tratteggi un po' questo personaggio? Sì, beh, è un uomo che a un certo punto del libro dice una frase che lo caratterizza: gli uomini non perdonano, dimenticano. È un uomo quindi che non riesce a perdonarsi perché rifiuta la scelta dell'oblio. Per lui tutto è scelta, quindi diciamo potremmo chiamarlo un eroe della responsabilità. Lui non ha mai negato l'omicidio, infatti ha accettato la condanna all'ergastolo, è anche in difficoltà nel momento in cui deve uscire dal carcere. Cos'è il suo senso di colpa? Beh, quando si parla di Malaguti, che è il protagonista, che diciamo che è l'assassino della storia, dobbiamo parlare di l'uomo che indaga su di lui, che è un quarantenne, si chiama Rainer, che fa amicizia con Malaguti, è un traduttore, diventa in qualche modo il suo traduttore, cioè quello che deve consegnare la storia di questo vecchio assassino all'umanità. Deve scriverne, deve scriverne la storia. Sì. E in qualche io ho immaginato così che Malaguti sia l'onda del mare che entra tra le rocce, cioè la materia narrata. E la voce narrante, questo Rainer che scava nel passato del vecchio, sia la risacca che muove i licheni, arriccia le alghe, evolve ciottoli e conchiglie. E diciamo l'onda va e viene, non si può pensare a un personaggio senza l'altro, uno è specchio dell'altro. Il quarantenne è un uomo un po' in crisi, ha 39 anni, 40, esce da amori disordinati, ha una vita confusa, non so, si dimentica le scarpe frigorifero. E lo scoppio, perché è un vero e proprio esplosione di amicizia tra questi due, in qualche modo lo aiuta a mettere in ordine la sua vita e a diventare un cercatore di senso più acuto, più abile di quanto non fosse prima. E Malaguti consegna disegnando, un po' raccontandolo e un po' negando all'amico il proprio passato, in qualche modo anche Malaguti acquista senso. Senza volerlo, glorifica se stesso, la sua scelta dura. Lui al processo non si è difeso, l'omicidio è avvenuto nel 1986, è stato difeso da un avvocato d'ufficio, ha rifiutato di essere difeso e ha accettato il massimo della pena, anche se non la meritava, perché l'omicidio non era premeditato ma intenzionale. Ecco, tu hai parlato di amicizia, hai detto l'amico. Inizialmente il rapporto fra Rainer e Malaguti non è così facile. Un uomo, insomma, che esce dopo 20 anni di carcere, che ha 81 anni, è anche un uomo, insomma, che sta un po' sulle sue. Ma anche lo stesso Rainer, appunto, diciamo che riceve questo incarico dalla direttrice del carcere e inizialmente dice: ma perché ha scelto proprio me? Perché io dovrei raccontare la storia di quest'uomo? Com'è che lentamente i due si avvicinano? Fino praticamente alla fine del romanzo si daranno sempre del lei? Beh, si avvicinano perché hanno una passione in comune, che è la letteratura, che è la poesia come casa dell'anima, quasi fine antropologico della specie umana, e quindi questo è il vero denominatore in comune che hanno. E poi perché questa amicizia è come un'alleanza segreta, quasi inconfessata, tra vecchiaia e giovinezza, cioè tra un uomo che è alla fine della giovinezza e uno che è alla fine della vita. Ed è un po' il libro, e anche, se si vuole, un'esaltazione della vecchiaia, perché Malaguti è un vecchio, ma c'ha un corpo ancora vigoroso e sano, diciamo, crea anche un po' di invidia per vorrei alla sua età essere come lui, e dà soprattutto un vigore intellettuale, una perspicacia e un'attività cerebrale meravigliose. E questa alleanza tra l'incertezza dell'età di mezzo e questo rimarcare che la vita è comunque meravigliosa anche alla fine, questo di quest'uomo che è roccia contro il destino in qualche modo e che è perseguitato da una colpa che in fondo poi nemmeno ha, diciamo, è un'alleanza quasi sacra che si crea tra i due. Non poteva non passare attraverso in qualche modo l'amore per la poesia, la letteratura e per il canto nel senso lato del termine. Noi lettori, intendo, scopriamo quello che è successo a Malaguti, la sua storia, il perché è finito in carcere, attraverso il racconto che ne fa appunto Rainer, cioè gli appunti che prende, insomma la storia, gli incontri che fanno, eccetera. E da qui si fanno anche dei flashback nel passato, nel senso che Malaguti inizia a raccontare degli episodi che sono accaduti quando c'era ancora la Seconda Guerra Mondiale, il nazismo. Lì ho riconosciuto il Molesini che conosco, ho detto subito: allora qui non è la storia di un serial killer, ma effettivamente c'è sempre qualcosa di storico, qualcosa che ha a che fare con i fatti realmente accaduti. Ti piace sempre agganciare qualcosa alla storia dei tuoi romanzi? Sì, molto, perché la storia è la realtà. E la res, proprio la cosa, resiste. Dalla costrizione nasce la libertà, la costrizione della forma soprattutto nasce la libertà dell'espressione. Cioè non si è liberi in mezzo al deserto, in mezzo al mare, ma su una strada dove puoi scegliere la direzione. Magari non puoi andare proprio in mezzo ai campi, però almeno hai una direzione, puoi andare di qua o di là, a destra o a sinistra. Quindi diciamo la storia mi costringe, mi regala, diciamo, mi dà l'opportunità di essere molto rigoroso, sia rispetto alla materia narrata che rispetto al linguaggio, che poi è la chiave di volta di ogni libro degno di questo nome, perché ovviamente ti costringe ad adoperare la lingua con vivacità, ma una vivacità in qualche modo controllata. Malaguti parla in alcuni punti della sua vita in carcere, no? Ricorda questi 20 anni in carcere, e da persona che ha fatto volontariato in carcere, appunto, devo dire che ho riconosciuto gli scenari, anche gli odori che tu descrivi. Quindi mi chiedo se tu da scrittore sei stato in carcere per, come dire, poter descrivere determinati ambienti, ma anche i ragionamenti, perché non dimentichiamoci che l'incipit di questo romanzo è: ho vissuto da uomo libero e la libertà mi ha devastato. Dietro questa frase ci sono tante cose che un detenuto di lungo corso può pensare. Sì, c'è un'altra frase circa metà libro di Malaguti che dice: la morte fa paura e non dovrebbe, la libertà non ne fa e dovrebbe farne molta anche di paura. E alla fine proprio la frase, questa si può dire perché non tolgo suspense, la frase conclusiva è: il segreto della felicità è la libertà e quello della libertà è il coraggio. Cioè se non hai coraggio, quindi se non adopri la libertà non ce l'hai e quindi non puoi essere realmente felice. Ora Malaguti è un esperto di questo, della relazione tra libertà e prigionia, e in qualche modo ha inventato la sua libertà anche quando era in carcere. Non a caso poi l'amicizia dei due nasce anche citando una poesia di Rilke, La Pantera, che è questo animale meraviglioso, potentissimo, che ha questa volontà rapita e segregata dietro le sbarre, sia pure costretta. La bellezza della pantera, la sua energia vitale è comunque abbacinante. E Malaguti è un po' così, è una pantera in gabbia, e nel suo discorrere, nel suo mettersi in relazione a Rainer, che diciamo Rainer è un po' tutti noi, se vogliamo, l'uomo normale, l'uomo che ha una vita anche impiegatizia, un po' l'uomo anche... che non è mai stato in galera, sì, insomma, che però in qualche modo anche lui si rende conto che Galeotti lo siamo un po' tutti, come una farfalla che entra in una bottiglia e sbatte contro le pareti della bottiglia perché non sta ferma, non ascolta l'aria e potrebbe riuscire, invece muore in bottiglia perché continua a volare, a battere contro le pareti. Rainer è un po' così, ecco. Io ma... sono stato in carcere diverse volte comunque come volontario, non ancora come Galeotto. Quella ancora fa presagire. È molto bello il personaggio comunque della direttrice del carcere, sì, perché veramente ha un rapporto umano profondissimo con questo detenuto, e alla fine si può capire anche che è proprio un rapporto di amicizia. Sì, d'altra parte lei soffre di una malattia dolorosa che è l'artrite reumatoide, molto molto deformante, quindi acuta, quindi anche le persone che da sempre, una persona ammalata diventa più sensibile a soffrire altrui, sa cos'è il dolore anche fisico, lo interiorizza generalmente, se è intelligente, dotato ovviamente di empatia, riesce più di altri a comprendere il dolore altrui, e certo un carcere è un luogo di grande sofferenza e di dolore. Grazie ad Andrea Molesini, ora in libreria con La solitudine dell'assassino, pubblicato da Rizzoli. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Valeria Bernardi, vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco.